Radio 24 Reportage. Inshallah Europa. Patrasso, Portofranco, di Giampaolo Musumeci. Patrasso non esiste. Il suo porto, le sue luci, i turisti, l'andirivieni ora furioso, ora più sonnolento di italiani, spagnoli, tedeschi, in transito verso l'incanto delle isolette greche. Patrasso non esiste, il suo lungomare costellato di locali e pub che accoglie giovani alticci e vomita ogni sera musica pop ad alto volume. Patrasso non esiste, credetemi. Buttate via la Lolly Planet e la Rutal. Lì manca un pezzo. C'è un lato B a Patrasso, un lato B della città greca che tutti ignorano, che nessuno descrive, un lato oscuro eppure alla luce del sole, un lato ignominioso eppure tollerato da anni. A Patrasso, proprio a fianco al grande porto, c'è una baraccopoli, incastonata tra palazzini residenziali e il lungomare, fatta di capanne di legno e tende di fortuna, e abitata da centinaia di profughi. Il campo di Patrasso è il luogo di transito per i profughi afghani in attesa di tentare la sorte e cercare di arrivare in Italia. Ogni giorno, ogni notte, a gruppi di 5, 6 e più, scavalcano le recinzioni e, sottraendosi ai controlli e al manganello della astinomia, la temibile polizia greca, provano a nascondersi dentro i camion, tra le casse di frutta, nei frigoriferi, tra i semiassi dei tir diretti a Bari, Ancona, Venezia, il sogno italiano. Perché qui non è Europa per loro. No, la Grecia non è Europa. Le centinaia di migranti che incontro hanno percorso migliaia di chilometri in settimane, a volte mesi, di viaggio. Sono fuggiti dalla guerra, dalla ferocia talebana, spesso dalla povertà e dalla miseria di un paese che non trova pace. Da Kabul, da Herat, hanno valicato le montagne, hanno passato la frontiera iraniana, hanno provato la crudezza della polizia di Teheran, hanno pagato i passatori migliaia di euro, hanno abitato i sobborghi di Istanbul e quelli di Atene, hanno attraversato il mare e sono arrivati qui. Una volta in Europa potrebbero provare a chiedere asilo politico. I presupposti ci sono tutti, vista la loro situazione, ma non qui, non in Grecia, dove tra i richiedenti asilo solo lo 0,5% ottiene l'agognato status. Il loro campo sorge a circa un paio di chilometri dall'area portuale. Nato spontaneamente 10 anni fa e costituito da un centinaio di baracche e tende, costruite con mezzi di fortuna, senza fognature e spesso senza elettricità. Le speranze e le aspirazioni di centinaia di ragazzi e uomini afghani si infrangono qui, in un campo in cui si sopravvive a stento. Yazir ha 24 anni e mi accoglie zoppicando nella sua baracca. I left Afghanistan because of fear of getting died there. Ho lasciato l'Afghanistan perché avevo paura di morire, a causa della guerra, a causa dell'odio. Lì non c'è nulla, non c'è cibo, elettricità, niente. Non c'è vita in Afghanistan ora. Tutti ci attaccano, ogni giorno bombardano, gli americani e le altre forze. È difficile vivere lì. Io abitavo a Ghazni, nel nord del paese. Sono arrivato a Patrasso in agosto o settembre del 2007. Si può dire che qui nel campo non c'è elettricità, perché quando noi cerchiamo di prendere la corrente e ci attacchiamo alla rete, la polizia e i tecnici vengono e tagliano i cavi senza alcuna ragione. Non ci danno elettricità legalmente, non ci danno fognature, non ci danno acqua. Dicono che per loro siamo merde, ma anche noi siamo esseri umani e loro non ci rispettano. Quando avevo lasciato il mio paese, i miei amici mi dicevano che in Europa rispettavano i diritti umani. Se arrivi in qualsiasi paese in Europa, mi dicevano, potrai chiedere asilo politico e ti sentirai più a casa di qua. Ma da quando sono arrivato in Grecia ho capito che erano bugie. Qui non ci rispettano. Adesso voglio solo capire dove posso ottenere asilo, dove posso essere al sicuro. Qui non sono al sicuro. Sono più in pericolo che in Afghanistan. Ogni giorno la polizia ci picchia. Vedi la ferita qui alla mia gamba? Noi cerchiamo sempre di nasconderci nei camion al porto per andare in Italia, ma l'altro giorno la polizia mi ha visto e mi ha rincorso. Erano veloci, mi hanno raggiunto e colpito con un bastone elettrico. E dopo che mi hanno ferito alla gamba, mi hanno preso a calci e mi hanno detto «Ora vattene, stronzo». Ora mi sento meglio, la gamba va meglio, però devo dire che in Grecia non c'è futuro per me. In Greece there is no future for me. La vita nel campo scorre lenta, ogni giorno è uguale all'altro, scandito dalle partenze dei traghetti e dai controlli della polizia. Alcuni dei migranti hanno costruito capanne più belle di altre, si vede che se la passano meglio. Altri riescono addirittura a fare del piccolo commercio e vendono bibite, snack e piccoli oggetti, dalle lamette da barba alle batterie, in piccoli chioschi. Ogni tanto nel campo spunta un'auto, persino una moto di grossa cilindrata, frutto di chissà quale affare. A farla da padrone sono i cellulari, magari quelli con la musica MP3 dentro. Con quelli si resta in contatto con chi è già in Italia, con chi sta per arrivare e con i trafficanti che preparano le tappe del lungo viaggio. La giornata nella baraccopoli di Patrasso comincia all'alba, quando la luce del sole risveglia i 600 abitanti, ma possono arrivare a un migliaio a seconda dei periodi. La puzza di resti di cibo, sporcizia, dell'allevamento di pecore, in alcuni punti del campo è acre, pungente, ti sale alle narici e ti stordisce. Qui non ci sono fognature, non ci sono servizi igienici. L'immondizia viene scaricata dove si può. L'equipe di Medici Senza Frontiere ha da fare ogni giorno. È qui regolarmente da un anno. Prima le cure mediche erano affidate a sporadiche azioni di volontariato. Il dottor Georgios Afeidis mi fa assistere ad alcune visite. Le pessime condizioni di salute nel campo dipendono dal fatto che qui la gente vive in baracche fatte di plastica. Dormono insieme, dalle 5 alle 10 persone in una sola stanza. Ci sono pochi bagni per tutta questa gente. Le condizioni sono difficili. Molti di loro hanno bisogno di un'assistenza medica primaria. Le malattie più comuni qui sono malattie della pelle come la scabbia, che infetta a causa delle cattive condizioni igieniche, e malattie e infezioni respiratorie, molto comuni perché il virus si diffonde quando c'è gente che vive così vicina una all'altra. E abbiamo anche molti feriti perché si scappa dalla polizia, si saltano le reti e ci si infila nei camion. Alcuni di loro dicono di essere stati picchiati dalla polizia. Non so se è vero, ma ci sono molti feriti che denunciano violenze. Ahmad, 18 anni, mi accoglie nella sua baracca con gesti lenti ed eleganti, un sorriso triste e una voce che è poco più di un sussurro. No, I'm just feeling so much pain. Mi fa molto male adesso. Due giorni fa ho tentato di andare al porto. Un comando della polizia mi ha preso e mi ha tirato giù dall'autobus dove cercavo di nascondermi. Mi hanno preso a calci e pugni e ora puoi vedere la mia situazione. L'osso sotto il mio occhio è rotto. E questa è la situazione di chi vive a Patrasso. Quando mi hanno colpito mi usciva un sacco di sangue dal naso. Poi mi hanno spinto a terra, preso a calci e mi hanno detto vai via di qui. Ahmad dovrà essere operato da qui a una settimana. I medici gli hanno detto che non può stare con quell'osso rotto, è molto pericoloso. Gli chiedo se continuerà a provare ad andare in Italia. You know, this situation I think it's not good for Afghan people. Sai, la situazione non è buona per noi afghani. Io voglio cercare di costruirmi un futuro, andare da qualche parte per costruirlo. Voglio studiare. Voglio essere una buona persona, essere colto. Prima dei talebani io studiavo. Ora non si può più studiare, non si può più vivere coi talebani. Ecco perché noi lasciamo il nostro paese per andare in un altro. Io ho lasciato l'Afghanistan perché i talebani volevano trasformarmi in kamikaze e costringermi a indossare una giacca piena di esplosivo e farmi saltare in aria. Mi dicevano che sarei andato direttamente in paradiso. Mi volevano costringere. Hanno anche ucciso mio fratello e mia nonna. Ecco perché scappiamo da lì. Io non so più nulla della mia famiglia. So I don't know about my family, what they're doing. That's good. So like bread, but with olives inside. Yeah. È l'ora di pranzo nella baraccopoli di Patrasso. Yasir e Mohamed preparano un piatto di verdure e ascoltano musica indiana. Mi invitano a dividere il pasto con loro, mentre Yasir riceve una telefonata dall'amico Ibrahim, che ce l'ha fatta ed è già in Puglia. Aveva lasciato il campo di Patrasso una settimana prima e ora finalmente dà notizie di sé. Ha 20 anni Ibrahim, ma si è finto minorenne e la polizia italiana gli ha creduto. Così è nel centro minori di Foggia. Pochi giorni dopo, scoprirò, scapperà dal centro alla volta della Svizzera per raggiungere un fratello. Mentre Yasir cucina, altri ragazzi curano le pecore e le galline che vengono allevate nel campo. Latte e uova, almeno per alcuni, sono garantiti. Il caldo nella capanna però è quasi insopportabile. Le pareti di lamiera, rivestite di cartone, trattengono il calore. Yasir accende un piccolo ventilatore, un vero lusso, per darci un po' di refrigerio. Il pacchetto di Marlboro comprato poche ore prima viene diviso fra tutti. Finito di mangiare, si gioca a carte per una mezz'ora. E poi è ora di andare. Zainetto in spalla, una bottiglia d'acqua, un po' di biscotti e via al porto. Il sogno chiama. Il sogno per tutti è spesso l'Italia, oppure l'Inghilterra. Il prezzo però da pagare è alto, altissimo, a volte la morte. Soffocati dentro i camion dopo 20 ore di traversata, maciullati sul selciato dell'autostrada adriatica dopo che le funi che li reggevano alla pancia dei camion si sono spezzate. Ma la morte non fa paura, perché il sogno di una vita migliore è troppo forte e seducente. Gli occhi sono vividi, le braccia forti, le gambe pronte. Star lì dietro mentre saltano la recinzione o mentre corrono per arrivare al porto è difficile. No, you don't want to go to the port. And you went to that ship. Adesso stiamo seguendo la ferrovia verso il porto, nascosti dalla polizia. Se ci vede, tenta di prenderci e noi scappiamo e torniamo al campo. Ogni giorno 20 persone riescono a imbarcarsi per l'Italia. E a provarci sono 100, 120, 140, a volte 200 al giorno. Ma solo il 10% o il 20% sono fortunati. E tutti vogliono andare via da qui. Italia, Francia, va bene qualsiasi paese dove si possa trovare lavoro. Qui in Grecia è come da noi in Afghanistan. Non c'è lavoro, per questo vogliamo andarcene. Come vedo il futuro? Non lo so, forse arriveremo in Italia dentro a un camion. Forse moriremo. Torna al campo con Yazir e Mohammad Denson, che invece è appena tornato dal porto. Ha il fiatone ricoperto di grasso e olio. Si è nascosto tra le ruote di un tir, ma la polizia lo ha sorpreso e alla fine lui ha dovuto desistere. Mi hanno beccato per 3 volte di seguito e ora sono sporco di grasso, come mi vedi. Cosa posso fare? Proverò ancora? Certo. Voglio andare in Italia. Provano e riprovano gli afghani di Patrasso a eludere i controlli e a salire a bordo delle grandi superfast che scaldano i motori prima di partire alla volta di Bari o Ancona. Provano e riprovano. We try again and again and again. It's like Tom and Jerry that we are Jerry and they are Tom. They are. È come un gioco fra noi e la polizia, come Tom e Jerry. Loro sono il gatto Tom e noi siamo Jerry, il topolino. Loro cercano di prenderci e noi scappiamo. Finora Jerry è stato molto sfortunato. Ma arriverà il giorno in cui il topolino sarà fortunato e si tirerà fuori di qui e batterà Tom. Allora sì, puoi chiamarmi Yasser Jerry e ti assicuro che Yasser Jerry ce la farà un giorno. Ne sono certo, perché noi abbiamo la speranza. Jerry ce la farà a prendersi il formaggio, un formaggio chiamato Europa. E il primo pezzettino si chiama Italia.